Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Il programma prevede di parlare delle trombe e delle campane, nonché di un nuovo monito, cogniete ipsum.